Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata e bentrovati. Oggi ho la possibilità di farvi incontrare dal vivo, live direbbe un tecnico del settore, un artista che con la sua musica ha colorato di emozione momenti molto speciali della nostra vita. Succede, ve ne siete accorti, di tanto in tanto ad essere benessere, di diventare un po' un contenitore emozionale di Radio 24 e al tempo stesso di trasformare un artista in life coach di tutti noi. I cantanti lo fanno quasi senza saperlo. La loro musica, le loro parole sono, se ci pensate, dei potenti attivatori emotivi, fissano nel mondo della memoria e dei ricordi momenti speciali della nostra vita. E l'artista che ho proprio qui in studio davanti a me, sono certa, ha fermato momenti molto importanti, indimenticabili della vostra vita, anche della mia, e ha lasciato anche dei segni nella vostra memoria emotiva. Volete la conferma? Qua in studio con noi abbiamo Christopher Cross, un artista dal successo a dir poco planetario. Benvenuto! Thank you for having me on the show. Grazie. Un artista, prendete ben nota, da 5 Grammy Award, un Golden Globe e addirittura un Oscar. E oggi è qui con noi a raccontarci il suo presente e il suo futuro. È appena uscito in tutto il mondo il suo nuovo bellissimo progetto discografico, Dr. Fight, ovvero il dottore della fede. E con un titolo così noi non potevamo lasciarcelo scappare, noi volevamo averlo nel nostro programma, una trasmissione dove spesso compaiono, è vero, dottori, ma dove anche la spiritualità, la vita interiore sono spesso al centro dell'attenzione e sotto la lente del nostro microscopio. Cosa si nasconde dietro questo titolo, Christopher? E chi è o cos'è il Dr. Fate di cui canti nel tuo ultimo progetto discografico? Dr. Faith, it's the song is about psychotherapy. Dottor Faith in realtà è la figura dello psicoterapeuta. Non so quale sia la situazione qui in Italia, ma negli Stati Uniti la psicoanalisi è molto popolare e quindi grazie a questa figura provi a scoprire te stesso per cercare di migliorare e affrontare meglio la vita. Quindi il titolo del mio nuovo album deriva proprio dal fatto che questo mio lavoro parla di stati d'animo, di conoscere se stessi, di sentimenti. Ecco perché Dottor Fate. Tu hai scritto: non sento questo album come un nuovo capitolo della mia carriera, ma come l'inizio di un nuovo libro. Cosa c'è di così differente da ciò che hai fatto in passato in questo progetto? Io te lo chiedo perché a noi ciò che facevi nel passato piaceva comunque. E comunque tu sei una garanzia. Ci piacerà anche questo nuovo progetto che segna, mi sembra, un'attenzione molto particolare a quello che tu dai, al tuo tirarsi fuori, a riprendersi in mano, a riflettere, a coltivare quella spiritualità, quelle cose buone che ci sono dentro di noi. Well, Dr. Faith, I produced myself, and it's all. In realtà la grande differenza è il modo in cui è nato questo album, perché è il primo album che produco direttamente, mentre in passato mi sono avvalso di altri produttori, e poi è un album nato per la chitarra, mentre in passato al centro della produzione c'erano le tastiere. Questa è la prima differenza. E poi sono passati 12 anni dall'ultimo album di Inediti, quindi sono cambiato anch'io come persona. E ho una nuova casa discografica e questo nuovo rapporto mi ha dato nuove energie per incidere. Allora, io ti dico, Christopher, come ho organizzato questa puntata. Io ho preso il tuo CD, Dr. Fate, e ho cercato di trovare tra i brani quelli che potevano individuare dei passaggi, come un po' che potevano in qualche modo indicarci degli approcci, dei percorsi per riuscire a fare quello che in fondo tu racconti in questo libro, no? Cercare di ascoltarsi di più per stare meglio, è quello che cerchiamo di fare ogni giorno nel programma di Essere Benessere. E allora cominciamo, quindi ho preso proprio i tuoi brani come delle tracce, come delle riflessioni da fare a voce alta con te, poi alla fine della nostra trasmissione mi dirai se ho scelto bene, e allora ti faccio sentire subito da dove partirei. Andiamo. Daybreak, a lovely morning, a chance for heaven, like the dawn of time, but no. I see a mountain, I see a long uphill climb, and even though I know it all begins by letting go, still I resist, still I resist. Must be crazy, think I'm Joe Frazier, fighting each moment as if I could win. Big surprise, where does it get me? Same old frustration, same old place I've always been. In books of truth I read, what life brings is what I need. Still I resist. Light resist, il buongiorno si vede dal mattino, si dice così anche, no? Lo dicono così i proverbi, e in questo tuo brano proprio tu dai il passo per aprirsi al nuovo giorno con uno sguardo bello, con la voglia di fare, con la voglia di entrare nella quotidianità. Invece ci sono tante persone che al mattino già si svegliano appesantite da questa quotidianità, che si portano in giro per tutta la giornata con grande peso e con grande fatica. Yeah, I think people, they want to be happy, but there's also. Tutti gli esseri umani vogliono essere felici, però poi in realtà oppongono molta resistenza a questa possibilità di essere felici, perché tendono ad affrontare la vita ingigantendo tutte le cose e facendole diventare enormi. Quindi si comincia alla mattina dicendo: ecco, l'auto non va, oppure questa cosa non funziona. E così si approccia la vita lamentandosi. Invece bisognerebbe essere molto più positivi per affrontare la vita con maggiore leggerezza e felicità. E perché se ci guardiamo intorno, ci accorgiamo che siamo molto fortunati. We need to just be grateful for what we have, but it's not a natural way, people. We all tend to find the smallest things become too big, you know? Senti, in una tua intervista tu hai raccontato di aver sofferto per un po' di anni di un vero e proprio blocco dello scrittore. Come se ne viene fuori in questa fase di stallo? Che cosa può aiutare a rimettere tutto in prospettiva? Quello che a te è successo, che cosa ti ha fatto di nuovo riprendere la carica, l'entusiasmo? Insomma, qual è stata la tua strategia? Well, I think that a volte un artista in realtà ha bisogno di prendersi un periodo di tempo per ritrovare l'energia, perché fare questo lavoro richiede molta resistenza. E per questo a volte è necessario fermarsi, lasciar sedimentare le cose per poter ricominciare. Forse se guardo adesso indietro, in realtà credevo di essere bloccato. Non lo ero, ma avevo solo bisogno di tempo per riflettere e per avere ancora qualcosa da dire. Io sono stato sempre legato alla musica perché questa è la mia grande passione e la mia fonte di energia e il mio contatto con il divino, e quindi è comunque la mia forza motrice. My passion, my purpose, it's my connection to God, then it's okay. Ecco, questo che ci stai raccontando penso che potrà essere di aiuto a tutti noi, chi nella vita non ha avuto un momento di stallo, una vita in cui ha messo in discussione, si è sentito incapace di affrontare dei compiti, delle sfide. E io penso che questa tua lettura, Christopher, c'è come un periodo in cui proprio ti riossigeni, rielabori, prepari. È un po' come l'inverno, in cui tutto sembra apparentemente spoglio e morto, ma dentro, no, gli alberi, la natura, la terra lavorano, perché poi sboccia di nuovo la primavera. Ma io vorrei parlare anche di pace, perché nel tuo nuovo CD tu esplori proprio questa ricerca della pace e suggerisci anche una strategia. In pratica, dimmi se ho capito bene, tu dici: se vuoi vivere in pace, impara a costruire la pace prima di tutto dentro di te. Allora, questo è un altro passo di questo nostro percorso che stiamo seguendo partendo proprio dal tuo CD. Allora, ho bisogno, dato che ti ho eletto a life coach, pensa, che tu mi aiuti proprio con delle piccole cose concrete, dei gesti che possiamo fare nella nostra quotidianità alla ricerca di quella pace che, se troviamo dentro di noi, riusciamo poi a trasmettere anche agli altri. Well, you know, the album does suggest that, you know, love is all, or love is the thing. John Lennon said, you know, all we need is love. John Lennon cantava all you need is love, cioè tutto quello di cui abbiamo bisogno è amore, nel senso che non bisogna concentrarsi su se stessi, sui bisogni egoistici che abbiamo, ma cercare di aprirsi al mondo e di tenere sempre presente la realtà che abbiamo intorno, i bisogni degli altri, e di vivere il mondo come un tutt'uno, come un'unità, perché mi sono reso conto che tutti i momenti in cui ero troppo concentrato su me stesso erano momenti di vita triste e grigia. That's what I found anyway. I said I found the worst times are when I'm just focused on myself, and if I go outside myself, everything's okay. Tutti noi scopriamo, se riusciamo a saltare oltre l'ostacolo, che se ci diamo agli altri, se guardiamo quello che ci capita intorno, riusciamo a distogliere anche lo sguardo dalle nostre piccolezze, quelle che ci agganciano e che non ci fanno volare. E quindi c'è un po' di altruismo, ma anche molto egoismo, se vogliamo, no, in questo percorso. It can be that way. Like I recently took my children to Africa. In effetti è un po' un paradosso. Essere altruisti diventa egoismo, perché poi uno sta meglio con se stesso e quindi con il mondo. A Natale, per esempio, siamo andati in Africa con i miei figli e l'intento era proprio quello di far vedere loro che non tutto il mondo vive come viviamo noi in America, dove magari ci lamentiamo, però di fatto abbiamo tutto. Insomma, il viaggio è stato un modo per tornare all'essenziale. Credo sia molto educativo. Magari non è necessario andare in Africa. Purtroppo c'è tanta Africa anche intorno a noi. Però è uno dei percorsi possibili per renderci conto della realtà. Io vorrei ascoltare un breve estratto da un'altra canzone di cui mi ha molto colpito il titolo, Help Me Cry, perché io ho trovato in questa canzone un racconto struggente, direi quasi cinematografico, ma l'ascoltiamo e poi voglio che sia tu a commentarla. Help Me Cry, di un uomo che nel giorno del suo del suo compleanno, chiede ad una donna in una notte di aiutarlo a piangere. Yeah, it's kind of gender reverse because it's his birthday. È un po' strana questa canzone, perché quello che accade in questa serata di compleanno è che lei chiede a lui che cosa vuole per regalo. And he is being really emotional and saying, "Well, I don't want that. I want you to help me to bring my emotions out to cry." And lui risponde che vuole far uscire finalmente le emozioni. Vorrebbe riuscire a piangere. She says, "Okay, that we can do that later. It's okay. It's your birthday. Let's just have a nice time." And then at the end. La parte paradossale della canzone è che lei alla fine impacchetta tutte le sue cose e se ne va. Lo lascia solo e lo fa piangere. Maybe she helped him cry. And maybe in the end she did help him cry because she left. So it's a little Adesso anche gli uomini hanno imparato a non vergognarsi delle lacrime. Yes, I agree, they are you know, men have come. Sì, è un lungo percorso quello che hanno dovuto fare gli uomini per scendere a patti con le emozioni. Il risultato forse in questo momento è che in molti uomini c'è confusione, perché da un lato le donne li vogliono forti e virili, dall'altro li vogliono emotivi. Dunque è un lungo percorso che però non è ancora finito. Meno male che ci siamo noi donne che possiamo aiutarvi. Le donne sono sempre state emotive e molto forti, mentre per gli uomini è una cosa nuova, quindi stiamo cercando di attrezzarci. Fra poco diremo, dai, vieni che ci facciamo un bel piantino, cosa che ci diciamo magari tra amiche, quando siamo un po' giù, che diciamo, guarda, ho il cuore così pesante, dai, vieni, che facciamo due chiacchiere e semmai ci facciamo un bel piantino. Lo diremo anche a Christopher. Christopher, anche per piangere ci vuole, per imparare a piangere, a tirare fuori le emozioni ci vuole tempo. Tra l'altro questi sono tempi in cui tutto passa e si consuma alla velocità della luce. Anche nella musica spesso ciò che si fa sentire e che ha successo colpisce per la superficialità con cui arriva tutti. Tu invece hai deciso di toccare delle corde molto più profonde, che hanno bisogno di lentezza, intimità, sono tutti concetti che hanno bisogno un po' di essere metabolizzati. Ecco, quindi è una scelta, se vuoi, anche abbastanza coraggiosa. I mean, I think, you know, this is the way I want things to be, slower, more, you know. In realtà non mi interessano i trend o le cose moderne. È vero, la mia musica è lenta, meditativa, riflessiva, ma perché questo sono io. Spesso sono molto contrariato per quello che vedo succedere nel mondo moderno in America. Ad esempio la politica, concentrata soltanto sui soldi. Oppure la parte artistica, lasciata ai reality show, piuttosto che alla bellezza fisica. A me non interessa se sono più o meno trendy. La mia musica è questa, e questo è il mio modo di essere. Quindi io continuo a fare così. Ascoltiamo un'altra canzone dal tuo album, Dr. Fate. Una canzone che racconta un nuovo incontro, se così vogliamo definirlo. Frozen in time while the calendar pages are falling like leaves from a tree. Getting the sense I'm connected to something and not sure what's happening to me. A Catholic school kid, enthralled to the altar, the rituals move me somehow. I left it behind when I learned how to think, so it's funny that suddenly now I'm praying. Never thought I would be praying deep in my soul. Praying, trying to surrender control. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo subito dopo insieme. Vi aspettiamo. Essere e benessere. E Eccoci tornati insieme qui in studio con me. Ho il piacere di avere Christopher Cross. Prima della pausa abbiamo ascoltato Praying, ovvero pregare. E tu, Christopher, racconti in una tua canzone che da bambino avevi imparato a pregare, ma poi quando da grande hai imparato a pensare, hai smesso di pregare. E invece all'improvviso, da adulto, ti ritrovi a compiere un rito che pensavi di aver perso per sempre. C'è dentro un momento reale della tua vita in questa canzone? Yes, absolutely, 100%. Was raised in organized religion. Sì, è una canzone al 100% autobiografica. Quello che canto è davvero il racconto della mia vita. Sono nato e cresciuto all'interno di una confessione religiosa, quindi una religione organizzata. Poi, crescendo, ho cominciato ad entrare in conflitto con alcune delle cose che venivano dette nei precetti e quindi mi sono staccato. Da persona adulta, invece, mi sono riavvicinato, anche se è vero che trovo una profonda differenza tra la religione e la spiritualità. Credo di aver maturato una grande spiritualità che ha poco a che vedere con la religione organizzata. Io prego. La mia preghiera preferita è una preghiera di ringraziamento per tutto quello che abbiamo intorno e per tutte le cose che ci sono state date, che non sono un diritto acquisito. Io non prego mai un'entità definita, ma un'entità superiore che, diciamo così, supervisiona la nostra vita. And as I said earlier, my music, I feel like it's my connection to God, but again, it's not religion. It's not, I'm not praying to Jesus or Buddha or any particular entity. It's just a higher power. And, Credi che la musica, anche la tua musica, Christopher, possa aiutare lo sviluppo o la riscoperta della dimensione spirituale di chi l'ascolta? Oh yes, I really believe so. As a matter of fact, I have a friend, and she and her husband, her partner. Sì, e su questo ti posso raccontare un aneddoto, proprio per dire che la musica può fare molto. Ad esempio, c'era un mio amico che si era separato da poco e stava lottando con le proprie emozioni, con il fatto di non riuscire a portarle in superficie e ad esternarle. E ascoltando Praying, si è reso conto, ha avuto una sorta di illuminazione. Si è reso conto che non doveva troppo concentrarsi su se stesso, ma guardare anche esternamente. Per cui ha avuto il coraggio di andare dalla sua ex e di raccontarle tutto, e di far venire fuori le emozioni, di ringraziarla per la famiglia, per tutto quello che lei gli aveva dato nella vita. Quindi, per me, che vivevo la situazione dall'esterno, è stato bello vedere come una canzone gli ha aiutati. Ma ci sono dei momenti in cui facciamo un bilancio e delle cose belle che abbiamo fatto, le mettiamo lì, ci danno forza, anche delle cose che magari non avremmo voluto fare. Secondo te ci sono errori che vorresti non aver commesso o tutto serve nella vita, anche gli errori, come, oppure i momenti in cui non ci accorgiamo di quello che abbiamo, nei momenti in cui non vediamo oltre noi, possono riscattarci, possono esserci d'aiuto. Tu l'hai provato, l'hai sperimentato, cosa ne pensi? Yeah, I think the mistakes are very important. Everyone, as I see my children making mistakes. Gli errori sono importanti nella vita. Adesso vedo i miei bambini che commettono errori e per loro a volte è una tragedia. Invece io cerco di rassicurarli, perché la cosa importante è imparare dai propri errori. Se si impara dagli sbagli, tutto sommato vale anche la pena di commetterli. Things that I do that have hurt people. This is something that's you never get over. C'è solo un errore che mi spiace di aver commesso, quello di aver ferito delle altre persone. Perché è vero, io ho imparato qualcosa, ma ho fatto star male qualcun altro. E poi devo ammettere che se sono un uomo migliore, lo devo alle donne. Most of the important things I've learned about being a better man, I've learned from women. Wow, mille punti. Senti, Christopher, il nostro è un programma di benessere. E allora, come vogliamo capire anche un ultimo segreto prima di salutarci, come sopravvivi allo stress di una carriera internazionale, alla sovraesposizione nel mondo dei media? Quali sono i tuoi trucchi? Quali gli errori che invece tuttora fai e da cui hai imparato, ma che non riesci a sganciarti di dosso? I think that You know, this thing. Forse sono un po' ripetitivo e torno al concetto che avevo espresso nella canzone Praying. Un modo per rimanere con i piedi per terra è proprio quello di pregare. The gift that I have with the music is really and this, I hate to be, you know, repetitive, but this thing about gratitude. And so in the morning. Perché innesca un circolo virtuoso. Per cui è la prima cosa che faccio al mattino e l'ultima che faccio alla sera. È proprio quella di continuare a ricordarmi che sono stato molto fortunato per il lavoro che faccio e per tutte le cose che ho. Perché è un modo di pensare a tutta la giornata e pensare in modo positivo per come cominciarla. Perché siamo un tutt'uno. Il mondo è una cosa unica. E quindi questo continuare ad essere grati mi aiuta a tenere i piedi per terra. Says, you know, we are all one. So much of what I've said earlier, just about, you know, you really need to learn to live your life in gratitude and a consciousness about the world is we are all one people, regardless of your color, preference, anything. Senti, a proposito dei piedi per terra, in questa nostra chiacchierata in cui abbiamo cercato, abbiamo scelto un percorso che ti è piaciuto? Yes, very much. It's very different. Sì, mi è piaciuto molto. È l'intervista più diversa che abbia mai fatto. E sono contento. Dimmi però, una cosa che ti fa molto arrabbiare. Well, you know, it's very frustrating right now for me. La più grande fonte di ansia e di frustrazione è la situazione politica in America e quella internazionale. Come ogni genitore, vorrei per i miei bambini tutto il meglio. Vorrei una vita felice, facile. Mentre, secondo me, i miei ragazzi che si stanno affacciando alla vita devono affrontare una situazione molto più difficile di quella che ho dovuto affrontare io in passato, quando ero giovane. Perché se pensiamo a come sta andando l'economia e alle guerre che ci sono, sono molto frustrato. Io non posso farci niente, per cui questa è una cosa che mi dà ansia. More even difficult than I was young. And so this is a big concern for me and a big source of anxiety. Christopher, noi dobbiamo salutarci, però abbiamo scelto i tuoi brani per fare questa specie di, no, guida alla introspezione. Adesso l'ultimo lo scegli tu, proprio il tocco da maestro. Well, I think because of everything we've talked about and the themes and proprio per il percorso che abbiamo fatto e per i brani che abbiamo ascoltato e che nessun'altra radio ha scelto, concluderei con la prima canzone dell'album, Hey Kid, perché è proprio la degna conclusione del nostro percorso di oggi. Cioè, passare il testimone, passare la torcia alle nuove generazioni che devono affrontare la vita e devono affrontare il mondo. It's called Hey Kid. Christopher, allora noi siamo pronti per ascoltarla, ma lasciami salutare Alberto Pellai che ci ha aiutato a preparare questa puntata, questa sorta di avventura. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, saluto anche Christopher, ero davvero incantato. Insomma, abbiamo lavorato proprio per prendere spunto dal CD di Christopher e trasformarlo. Che è diventato una sorta di life coach per tutti i nostri ascoltatori e tra l'altro il CD è proprio un vero e proprio percorso di life coaching. Mettiamo il bollino blu? Assolutamente sì. Hey kid, I'm talking to you. I got a couple things I'd like to say. The world's a mess and there's so much to do. And you're the one who gets to save the day. Well, I hope you'll do fine. Couldn't do much worse than this generation of mine. We had the answers but forgot that line that says love is all. Hey, kid, with my hair and my clothes, I bet you got some big dreams up your sleeve. Well, here's the secret every old guy knows. Time goes by like you would not believe. So don't wait, make it real. Try to do some work that'll help everybody heal. I don't know much, but the one thing I feel is that love is all. Intanto vi ricordo il nostro appuntamento quotidiano con il Daily Lab. Andate sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccate sul Daily Lab, la nostra officina del benessere, dove ogni giorno i nostri esperti ci regalano un consiglio per prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere. www.radio24.it, Daily Lab. essere e benessere. Caro Alberto, direi che alla fine della puntata di oggi potremmo rispolverare una buona abitudine di essere e benessere, un'esplorazione a 360 gradi con libri, musica e film, partendo dai temi che lo stesso Christopher Cross ci ha raccontato nel suo CD. Che dici? Sono molto d'accordo. Quindi ti sei messo al lavoro? Siccome ho lavorato per te, per i nostri ascoltatori, e tra l'altro ero veramente ispirato, perché guarda, il CD di Christopher Cross è davvero ricco di molte suggestioni. Allora, partiamo da una parola chiave. Ma io ho scelto luci ed ombre. Quindi due. Sì, esageriamo. È esattamente questo gioco di chiaroscuro che secondo me viene ben raccontato. Un po' te l'ha raccontato anche nell'intervista che ti ha rilasciato, è ben raccontato dalla sua musica. Io su questo tema ho selezionato un libro, un film e un CD. Ok, allora che cosa partirei dal libro, dalla lettura. Sì, è appena uscito un romanzo di Francesca Comencini, si intitola Famiglie, Fandango Libri. L'ho scelto perché è l'incrocio di due storie, di due nuclei familiari, uno molto convenzionale e uno completamente invece fuori da ogni convenzione, dove le luci abbinate alla verità degli affetti si mescolano alle ombre della fatica di crescere dentro alla complessità poi di avere dei figli che ne fanno un po' di tutti i colori. Un romanzo che è davvero raccontato quasi come un film. Ascoltiamo un brevissimo estratto. Volentieri. Nella camera c'è odore di chiuso. Il riscaldamento è troppo forte e secca la bocca. Ada pensa che è tutto sbagliato nella sua casa e per questo Daniele fugge ancora una volta prima del giorno. La maniglia del bagno è rotta. Il vetro della porta del corridoio è stato sfondato da una pallonata e mai sostituito. Le lampadine in salotto sono fulminate, mancano le pile al telecomando, i paralumi sono bruciati, le persiane non si chiudono. La fuga di Daniele le lascia in dono, come ogni notte, lo specchio nero della sua casa e della sua vita. Alberto, a chi consigli la lettura di questo romanzo? Ma questo è veramente un romanzo che dovremmo leggere tutti noi uomini adulti che cerchiamo di barcamenarci con la fatica di gestire una famiglia piena di relazioni, non necessariamente quelle della famiglia tradizionale, piena di punti di luce, punti di ombra. In questo romanzo le persone devono imparare a diventare qualcosa di diverso da quello che erano abituati ad essere, e lo devono fare per trasformarsi, e si trasformano proprio per amore, per salvare i legami che contano. Proprio un romanzo di grande maturità, e tra l'altro diventerà un film. E a proposito di film, tu hai selezionato anche per noi un film abbinato un po' a questo percorso che stiamo facendo, tutto incentrato su luci e ombre. Sì, questo è proprio un film che vi consiglio di recuperare. Ha fatto un passaggio velocissimo nelle sale e da circa 2 mesi è disponibile su DVD. Andatelo a recuperare in una videoteca. Si intitola La strategia degli affetti. Come mai sei così gentile? Gentile? Di solito mi odi. Ma che c'è, Fetch? Ha messo mamma. Dice che manda via i brufoli. Avanti, fatti aiutare. Avanti, cogliere, mamma! Non mi aveva mai risposto in quel modo. Ma è naturale, sta crescendo. Che cosa avete fatto? Niente. Mi hanno messo qualcosa nel dolce. Non abbiamo fatto niente. È arrivato il momento che comincia a farti rispettare. Senti, io ci provo. Non mi pare. Non sono un pupazzo. Io non sono il tuo pupazzo, hai capito? Lasciami, mi fai male. Dico, ma cazzo, ma sei innamorato di quella lì? Cioè, è assurdo. Ma che cazzo ti inventi? Buongiorno, Nina. Buongiorno. Papà è uscito dall'ospedale. Sta venendo a prenderti. Quindi una storia complessa, Alberto. Sì, è la storia di Matteo. Sembra un adolescente un po' bamboccione in una famiglia dove veramente le ombre sono tantissime. Improvvisamente fa irruzione Nina. Nina è la figlia del migliore amico di famiglia, improvvisamente compare, porta una nuova luce nella vita di Matteo. È l'occasione per svoltare davvero, per ridefinire un percorso. Sta per farcela Nina, ma Matteo viene di nuovo ritrascinato nel buio da cui è partito un film davvero doloroso, non riuscitissimo dal punto di vista cinematografico, ma io ho avuto la fortuna di vederlo tra l'altro al cinema con una platea di 200 adulti, non volava una mosca, ed è per questo che vi invito, nonostante non abbia avuto critiche incredibili o un grande successo, andare a recuperarlo. Secondo me parla tantissimo a noi adulti di insomma questo... tiratelo fuori dall'ombra. Assolutamente sì. Senti Alberto, a questo punto ci serve, oltre a quella di Christopher Cross che abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, una colonna sonora ispirata appunto al tema che stiamo esplorando oggi, luci e ombre. Io, sbirciando dei tuoi appunti, ho visto che tu hai scelto un pezzo che non mi sarei mai aspettata, che è una delle mie canzoni preferite. Allora, ne ascoltiamo un breve estratto, poi ti spiego perché l'ho scelto. Ah, pensavo che mi spiegassi perché mi piaceva. And friends just can't be found like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Avanti. Simon e Garfunkel. Bridge over troubled water. Quando sei giù e ti senti piccola, quando hai le lacrime nei tuoi occhi, io le asciugherò tutte. Ed è una canzone che vi segnaliamo perché ha compiuto 40 anni e io tutte le volte che la sento provo esattamente la stessa emozione di quando l'ascoltavo ed ero un adolescente. È uscita in un CD incredibile, una confezione che ha dentro anche un DVD con intervista agli artisti del tempo, fatta proprio in quel momento e fatta invece anche l'anno scorso, dove si ha proprio una visione molto commovente, direi, di come la continuità del tempo rende la verità delle emozioni assolutamente intoccate e intoccabili. Per cui un tuffo in una contemporaneità dove per me questa è la più bella canzone che ci sia sulla resilienza. Se siete nell'ombra vi aiuta certamente a ritrovare la luce. Senti Alberto, il percorso che abbiamo suggerito ai nostri amici ascoltatori è un percorso un po' di ricerca. Sì, devono proprio andarseli un po' a cercare tutti questi piccoli strumenti, chiamiamoli di arte terapia, che abbiamo consigliato oggi. Ma io metterei nel nostro percorso di arte terapia un libro che è facile trovare, direi immediato, basta andare in edicola domenica con Il Sole 24 Ore, esce il terzo volume della collana I racconti d'autore, a soli 50 centesimi in più oltre al quotidiano. Il libro che potremmo trovare questa domenica con il quotidiano in edicola è Il diario di un killer sentimentale di Luis Sepúlveda. Io direi, Alberto, che per così mettere un po' la voglia ai nostri ascoltatori, e anche questo libro è un libro dalle emozioni forti, ne farei sentire l'incipit, un breve estratto. La giornata iniziò male. E benché io non sia un tipo superstizioso, credo che in giorni del genere la cosa migliore sia non accettare incarichi, anche se la ricompensa ha 6 zeri sulla destra ed è esentasse. La giornata iniziò male. E tardi, perché atterrai a Madrid alle 6:30. Faceva molto caldo e durante il tragitto fino all'Hotel Palace dovetti sorbirmi uno sproloquio del tassista sulla Coppa Europea di calcio. Alberto, allora, appuntamento in edicola, abbiamo inserito anche questo romanzo nel nostro percorso di arte terapia. Ed è di nuovo un racconto di luci ed ombre, perché nel nero della professione di un killer di professione improvvisamente rompe la luce dell'amore. E a quel punto cosa succede? Grazie ad Alberto Pellai, grazie a voi che ci avete seguito. Il nostro appuntamento torna come sempre lunedì. Intanto buon weekend da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai.